E buonasera a tutti, mentre sono le 21:04 di questo lunedì 21 ottobre e naturalmente voi siete all'ascolto di Radio Alma con I colori dell'anima. Stasera insieme a me, insieme a Rosanna, c'è un ospite che voglio presentare subito, Vito La Raspata. Buonasera Vito. Buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri radioascoltatori. Allora, cominciamo col dire che Vito, per te questo è un ritorno al passato, è vero? Sì, è vero. Dopo 6 anni, 6, 7 anni penso, sono ritornato qui nella nuova sede, nei nuovi locali di Radio Alma, dopo 9 anni di animazione. Bene, allora, naturalmente scopriremo un po' di più su quello che hai fatto, però diciamo il tema di questa sera, e magari questo capirete anche perché lo abbiamo chiamato così, è parliamone. Che cos'è parliamone? Ce lo vuoi spiegare, Vito? Bah, parliamone, innanzitutto è un verbo, viene dal verbo Mi parlare, sembra proprio di sì, eh? cioè parliamo tra di noi, ecco no, ma in effetti era una vecchia trasmissione, sono in ascolto vecchie diciamo, persone che hanno ascoltato Radio Alma nei tempi i primi degli anni 2000, era una mia vecchia trasmissione, parliamone, del giovedì sera dalle 20 alle 21. È una trasmissione a tema in cui trattavo alcuni approfondimenti, approfondivo alcuni temi di carattere generale. Ecco, quindi ho voluto fare un piccolo, se vogliamo, un piccolo ritorno ai tempi passati e i nostri radioascoltatori dovrebbero forse ricordarsene. E quindi dicevo che in queste trasmissioni, che poi praticamente sono durate per 9 anni, dal 97 al 1997 al 2006, trattavo temi di carattere generale, come dicevo prima. Ecco, e questa trasmissione, se non ricordo male quello che hai detto, andava in onda alla stessa ora e allo stesso giorno? Esattamente, Quindi, sì. insomma, Dunque, è. no, ecco, bisogna distinguere una cosa, che io in quell'epoca ero il responsabile delle trasmissioni in lingua italiana perché giusto in quel periodo, se non mi ricordo male, nel 95, Radio Alma ha incominciato a trasmettere, diciamo tra virgolette, in maniera regolare e anche sempre tra virgolette in maniera legale. E quindi praticamente da un anno, un paio d'anni dopo l'inizio delle trasmissioni di Radio Alma, sono subentrato io per le trasmissioni in lingua italiana. E personalmente avevo due tipi di trasmissioni, uno il lunedì sera, appunto dalle 21 alle 22, come questa qui. Si chiamava appunto Italia, è una trasmissione prettamente di informazione. E poi invece il giovedì sera, dalle 20 alle 21, parliamone appunto come il titolo dice, si parlava di argomenti, vari argomenti e approfondimenti. Allora, quindi questo è un aspetto, poi ne vedremo anche altri e parleremo dell'attività, delle varie attività di cui sei responsabile, nelle quali ti sei fatto coinvolgere, ma diciamo quello che mi interessava e il motivo, diciamo, per cui ti ho invitato a venire in trasmissione è che tutte queste attività ovviamente sono fatte al di fuori del lavoro. Esattamente. E mi sembra, diciamo, è proprio importante sottolineare questo, che il lavoro ci prende tutti, la famiglia ci prende tutti, però poi volendo si può riuscire a trovare del tempo al di fuori e fare delle cose che possono piacere e possibilmente possono piacere anche agli altri. E far piacere. Far piacere. Ma soprattutto quello che dico sempre io, ci vuole passione. Uh-huh. Per incominciare e per proseguire, perché incominciare a fare qualcosa tutti sono capaci. Certo. Incominciano, però magari certo. Non finiscono. Lasciano magari a metà dell'opera, come si dice. E la passione, qual è la passione? La passione mia, essendo un italiano all'estero, è quella della salvaguardia e della diffusione della cultura e della lingua italiana. Ecco, questa è la mia passione. Ora, in questa mia passione poi subentrano altri temi. Sempre con questo fine ho incominciato appunto a fare radio, quindi giornalismo, sono il redattore capo di un giornale, Il Botteghino, che da 9 anni, da 11 anni, pardon, da 11 anni viene diffuso per via telematica. E poi di una compagnia teatrale, la Bottega Magica, che è una compagnia teatrale appunto per la diffusione della lingua italiana, ma non soltanto per gli italiani all'estero, ma soprattutto direi per gli amanti della lingua italiana, che possono essere belgi, possono essere francesi, inglesi, tedeschi. Ecco. Mm-hmm. Questo è per quanto riguarda così in generale, se poi insomma, magari in seguito ne parliamo anche certo, in maniera approfondita. Certo, solo queste poche cose diciamo. Sì, diciamo così, va a poche cose. No, ma vorrei sapere se fatto tutto questo riesce anche ad avere del tempo libero, probabilmente non molto. No, ma cerco comunque di combinare, perciò ti ho detto ci vuole passione. Se hai passione riesci a trovare anche il tempo libero. Va bene, allora approfondiremo comunque queste tue attività. Intanto io vi propongo un altro brano musicale, ci ritroviamo fra pochissimo. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con Radio Alma, con I Colori dell'Anima, perché resteremo con voi fino alle 22. A fra poco. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I Colori dell'Anima. Ed eccoci di nuovo in diretta dopo questa piccola pausa musicale. State ascoltando I Colori dell'Anima e vi ricordo che potete sempre ascoltarci sul nostro podcast radioalma.eu/I Colori dell'Anima. Potete anche Direi anche che chi vuol intervenire telefonicamente ci sì. può chiamare allo 02 345 26 56. Benissimo, grazie di questa informazione ulteriore. E dunque, a novembre c'è uno spettacolo teatrale. Vogliamo dire di che si tratta, Vito? Sì, in effetti, come dicevo prima in apertura, abbiamo qui una compagnia teatrale che si chiama Bottega Magica, forse i fedelissimi la conoscono, che opera da 11 anni. È nata nel 2002 e aveva come intenzione quella di portare su scena i classici della lingua italiana. E cioè, in effetti, la prima rappresentazione che noi abbiamo fatto è stata su Dante e Petrarca. Però portare questi classici non come si studiano a scuola, ma in maniera piuttosto ironica, divertente. Sappiamo per esempio che la musa di Dante fu Beatrice. Però non tutti sanno che Dante aveva anche una moglie. Certo. E dei figli. Una certa Donati, la moglie. Non mi ricordo il nome, ma il cognome me lo ricordo. Esattamente. E Quindi se a chiunque tu chiedi chi è la moglie di Dante, tutti ti dicono Beatrice. Invece non è vero. E allora ecco, questa mia idea è stata accolta anche da altre persone che quindi fanno parte della compagnia teatrale. Però il problema era di cercare una persona, una donna, che potesse parlare con un accento toscano, che potesse interpretare la moglie di Dante. Mi fu presentata una persona che è di Viareggio e che aveva contemporaneamente aveva anche un'altra compagnia teatrale che all'epoca si chiamava Il Cerchio Magico. E allora l'ho presa con me soltanto per fare la parte della moglie di Dante. Sì. Lei ha accettato abbastanza volentieri, insomma. Quindi abbiamo rappresentato Dante e contemporaneamente anche Petrarca, perché sono due autori, due scrittori, due se vogliamo poeti del 200, a cavallo tra il 200 e il 300. E quindi contemporaneamente ho voluto rappresentare la vita privata di questi due poeti. Dante con la moglie. Che cosa pensa la moglie di questa Beatrice? Uh-huh. Ecco, quindi c'è tutto un seguito. Sì. E per quanto riguarda Petrarca, la donna amata, non una musa questa volta per il Petrarca, ma veramente una donna amata dal Petrarca, è stata la Laura. Uh-huh. Ecco. La Laura che invece, ecco, entriamo in casa di Laura, il marito di Laura, che sì. Cosa pensa di questo italiano che è venuto a disturbare mia moglie? Ecco. Capito. Quindi praticamente sono due vite di due autori dell'epoca, del 1200 e 1300, contemporaneamente, che si svolgono una in Italia e un'altra in Francia. Ecco, quindi questa è stata la mia prima rappresentazione teatrale fatta con a mo' di interventi, di sketch, sull'Italia, prima con Dante, poi sulla Francia con Laura e il marito, a casa di Laura e il marito. Quindi contemporaneamente avvenivano questi due flash, se vogliamo chiamarli così, e con giochi di luce. Quindi è stata la mia prima rappresentazione. Sì, ma toglimi una curiosità. Dove hai preso il materiale su cui basare lo spettacolo? Ecco, il materiale... Nel senso che non credo ci fosse un libro belle fatto. No. Anzi, non lo trovi da nessuna parte questo infatti. Libro. L'ho scoperto soltanto tramite... Avevo rappresentato precedentemente una commedia di Luigi Lunari nel 2000, così per gioco, Tre sull'altalena, e ho conosciuto questo autore di commedie, questo scrittore Luigi Lunari di Milano, che è abbastanza anziano, ha 80 anni passati. Faceva parte del Piccolo Teatro di Milano, era con Streller. Sì. E quindi ho fatto conoscenza di questo scrittore, ma così per puro caso, via email ci siamo scritti, e mi aveva detto che ci aveva questi due piccoli piccoli, come possiamo chiamarli, piccoli scritti, che non aveva mai rappresentati, su Dante e su Petrarca. Ho capito. Era proprio quello che io cercavo, quindi vedi proprio il caso. Quindi hai cominciato proprio in bellezza, cioè per te che volevi appunto diffondere la lingua e la cultura italiani, come dicevi prima, hai cominciato proprio con il padre, della lingua italiana. Esatto. Poi abbiamo continuato e abbiamo anche rappresentato i Promessi Sposi, quindi abbiamo continuato in questa idea. Però ovviamente... Ma i Promessi Sposi l'anno scorso? No, il Promessi Sposi l'abbiamo fatto nel 2007, e l'anno scorso abbiamo fatto una ripresa. Ma per esempio, ecco, anche in questo caso, tu hai rifatto i Promessi Sposi per la seconda volta, è stato diverso? Ovviamente ogni volta che rifacciamo lo rivediamo la nostra... con il rifacimento... facciamo anche delle modifiche, delle correzioni, anche perché purtroppo qui siamo in un paese dove ci sono italiani all'estero, però di attori teatrali non è che si trovano molti. Per strada, come magari è possibile forse in Italia. Quindi qui ci dobbiamo basare sul rapporto umano di quello che troviamo, certo. E quindi nel rifacimento ci sono state alcune persone, alcuni attori che sono andati via, quindi non potevo contare sulle attori che avevo utilizzato nel 2007, quindi ho dovuto prendere altre persone. Il bello è che gli attori hanno dovuto interpretare più ruoli, perché nei Promessi Sposi, come tu ben sai, di personaggi ce ne sono finire. Quindi c'erano alcuni attori che hanno fatto 3 e perfino 4 ruoli. E quindi va bene, questo è un altro... un'altra rappresentazione che noi abbiamo fatto. Però ovviamente, come tu ben sai, insomma, di classici italiani che si possono rappresentare teatralmente non è che ce ne siano molti. Quindi abbiamo dovuto anche, anzi stiamo pensando pure di rappresentare il Libro Cuore. Quindi degli episodi del Libro Cuore. Degli episodi, è un po' difficoltoso, ci vuole... Sì. Non riesco a vederlo come commedia, devo dire, sarebbe più una tragedia, un dramma, non so. Invece la nostra idea è quella di rappresentarlo in maniera simpatica, ironica e divertente. Ho capito. E niente, poi da cose nascono cose, quindi l'idea iniziale era quella di rappresentare i classici nei limiti del possibile, ovviamente. Sì. Ma poi siamo passati al cabaret e abbiamo fatto anche dei cabaret, degli sketch. Sì. Perché il nostro scopo è quello di, di diffondere la cultura e la lingua italiana, ma nello stesso tempo divertire. Sì. Quindi la conoscenza attraverso il divertimento. Il pubblico deve andare via non quando lascia la sala, non deve andare via con altri pensieri, con altre preoccupazioni di quando si è seduto, diciamo, a teatro. Sì. Ma deve andare via con la testa piuttosto libera dopo una giornata di lavoro. Quindi questa è l'idea principale. Dopo i cabaret abbiamo iniziato anche delle rappresentazioni, vere e proprie rappresentazioni di commedie in 2 atti. Ho utilizzato sempre questo scrittore, diciamo nei limiti del possibile, Luigi Lunari. Sì. Abbiamo la maggior parte delle rappresentazioni che abbiamo fatte sono state sue rappresentazioni, suoi scritti. Abbiamo fatto anche un giallo, abbiamo rappresentato un giallo teatrale. Ma ecco, l'importante, quello che vorrei anche soffermarmi, è che non prendiamo il testo così com'è e lo rappresentiamo, ma lo adattiamo. Lo adattiamo ovviamente alle nostre esigenze e, come dicevo prima, anche all'utilizzo del fattore umano, delle persone che abbiamo a disposizione. Certo. Magari possiamo eventualmente togliere o aggiungere dei personaggi. Allora, senti, adesso faremo un'altra pausa musicale, però prima di mandare in onda il brano, quale colore sceglieresti? Perché, come sai, i colori dell'anima, ci piace associare alla trasmissione di cui parliamo un colore che magari rispecchia ovviamente chi fa la trasmissione. Beh, il colore che ho scelto è il verde. Perché il verde? Innanzitutto perché il verde è da speranza, no? Ma questo è comune, sì. Tutti lo sanno. Certo. Ma poi perché? Per un gioco di parole, quest'anno è il bicentenario di Verdi. Sì. E a giugno io con la mia associazione La Bottega dell'Arte ho organizzato una serata musicale su Verdi, che ho intitolato Rosso, Bianco e Verdi. Ecco, sì. Perché quindi ho scelto questo colore Verdi, perché in sintonia appunto con questa ricorrenza. Va bene, perfetto. Allora ci ritroviamo quindi fra pochi minuti con Vito La Raspata. Intanto rimanete sintonizzati, mi raccomando, con I Colori dell'Anima, e a fra pochissimo. I colori dell'anima, questa sera la trasmissione si intitola Parliamone, e parliamone perché appunto una fra le mille attività che Vito La Raspata, l'ospite di questa sera, ha fatto, c'era appunto una trasmissione radiofonica qui a Radio Alma che si intitolava così. Però io, prima di ridare la parola a Vito, volevo ricordare appunto lo spettacolo teatrale a cui sta lavorando in questo momento, che si chiama L'Invitato, e che ci sarà a novembre ad Anversa, il 17 novembre al Hut Klokus, Parochianstraat 4, e a Bruxelles venerdì 22 novembre alle ore 20 presso il Palais des Beaux-Arts. La regia appunto di Vito La Raspata e Ortensia Semoli. L'Invitato, quindi. Possiamo, ecco, trovare, sì, maggiori informazioni sul botteghino. Sul botteghino, ecco, approfitto per parlare del botteghino. Del botteghino. Il botteghino è appunto un mensile nato come bisettimanale, come quindicinale, sì, ma siccome il lavoro era troppo l'ho fatto diventare mensile. Quindi una volta al mese viene inviato per via telematica a chi ne fa richiesta. Attualmente ho una lista di invii di quasi 2500 persone. Anzi, devo dire che chi lo desidera, e viene inviato gratuitamente a tutti gli italiani, ma non soltanto agli italiani, anche coloro che agli amanti della lingua italiana. E il botteghino è un mensile di informazione culturale, ma non solo culturale, ma anche di avvenimenti, eventi che ci sono sia in Belgio che in Italia. Perché, ecco, voglio aprire una parentesi, perché è nato questo botteghino, che è da 11 anni appunto che viene inviato, e sono arrivato al prossimo numero che uscirà, il 188. Perché è nato? Perché quando sono arrivato qui a Bruxelles non sapevo se ci fossero degli eventi italiani, insomma, sì, che cosa si facesse, insomma, cioè un italiano che voleva sapere cosa si fa a Bruxelles, dove le andava a cercare queste informazioni. Dove le andava a cercare, in effetti è un po' come il tam-tam, insomma, amici, sì, che parlavano, dice: ah, senti, lì c'è questa rappresentazione, o qui c'è questo film, e allora, ecco, è nata da questa idea. Inizialmente volevo fare raccogliere tutti questi eventi e metterli così, inviarli inviarli a chi, agli amici, a chi ne faceva richiesta. Quindi solo per gli eventi, è nato solo per gli eventi, esattamente. Ho capito. Dagli eventi poi cominciavano ad arrivare anche delle informazioni che mi dicevano, cioè, senti, puoi mettere che c'è una, per esempio, la presentazione di un libro, sì, ecco. O un bando, un bando di gara, sì. Sì, in effetti ci sono stati diversi bandi di gara, di concorsi, eccetera. Sì. Quindi ho incominciato a mettere anche concorsi, presentazioni di libri, eccetera, e poi da lì sono nate poi tutte le altre informazioni che ricevo normalmente sia dall'Italia sia da gente che desidera pubblicizzare qualche cosa, insomma, ecco. E quindi siamo arrivati a 188 numeri. Adesso ci sarà una festa per il 200. Il 200 sarà l'anno prossimo, senz'altro, verso la fine dell'anno, sì, dell'anno prossimo, non lo so. Al numero 100 non c'è stata una festa, ma c'è stato un numero speciale. Per la prima volta è uscito in carta. Ah, ho capito. Sì, perché mi sono appoggiato ad un giornale già esistente che usciva in carta, e mi sono messo d'accordo con il direttore per fare uscire un inserto. Infatti è uscito nell'inserto di questo giornale il botteghino per la prima volta e l'unica volta di carta. Bello. Allora, io intanto volevo approfittare per ringraziarti, perché il botteghino riporta sempre la trasmissione I colori dell'anima, quindi penso fisso, che fisso. Sì, quindi insomma, noi dei colori dell'anima ti siamo grati per questa pubblicità che ci fai ovviamente gratis regolarmente sul botteghino. Ma appunto, tu hai detto che hai 2000, circa 2000 persone, ma ce ne sono molte migliaia, perché io stessa non sono tra i destinatari, ma lo ricevo invece da una persona che lo trasmette regolarmente. Quindi ci sono degli cosiddetti amplifiers, quindi c'è proprio una distribuzione. Se non lo ricevi è un mio errore, allora. Ma solo per dirti che, pur non ricevendolo da te, comunque lo ricevo regolarmente, quindi insomma sappi che la diffusione è molto più ampia di quella che tu pensi. Sino all'anno scorso ero io personalmente che lo inviavo, sì. A partire da quest'anno è un'altra persona che lo invia, ma che si è offerta di fare, diciamo, da postino. Capito. Sono sempre io che lo faccio, sono sempre io il direttore e il redattore responsabile. Anzi, volevo dire, chi lo volesse ricevere può inviare il suo indirizzo a questo indirizzo: Bottega 2002 in cifre, chiocciola hotmail.com. Quindi bottega 2002 chiocciola hotmail.com, e quindi può fare richiesta di ricevere il botteghino. È completamente gratuito. Allora, vogliamo dire che questo botteghino da 4 pagine oggi ne ha 14 e che magari diventerà ancora più grande? Non lo so, forse sì. Non so, poi magari diventerà talmente grande che non si può neanche mandare per email, bisogna fare attenzione a queste cose, a questi aspetti pratici. So. Io il botteghino diventa grande sulla base delle informazioni più o meno importanti che ci sono. Alcune volte faccio anche dei numeri speciali, quando c'è da comunicare veramente qualcosa, oppure per esempio per le votazioni, ecco. Sì. Faccio dei numeri speciali, oppure per Natale, Pasqua. Ecco, questo. Quindi per Natale ci prevediamo che ci sarà un numero speciale? Non lo so. Non lo sai? Non lo so. Va bene. Quindi ecco, questo è per quanto riguarda il botteghino. Va bene. Allora, prima di passare alle tue tante infinite attività, io proporrei di fare un'altra pausa musicale. Ci ritroviamo quindi fra pochi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Vuoi ridire ancora il numero di telefono di Radio Alma, Vito? 02 345 26 56. Benissimo. Siamo all'ascolto sì, dei vostri, delle vostre telefonate. E poi io volevo anche ricordare l'indirizzo di posta elettronica, i colori dell'anima, tutto attaccato, i colori dell'anima, chiocciola radioalma.eu, molto semplice, i colori dell'anima, chiocciola radioalma.eu. A fra poco, quindi, mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi. Eh sì, oggi con i colori dell'anima stiamo scoprendo le varie modalità di comunicazione, fare comunicazione anche possibilmente divertendosi, con Vito La Raspata, che è ospite qui a Radio Alma ai colori dell'anima. E Vito, che è in pensione da qualche mese, però non ti sei messo ancora in pensione dalle varie attività. No, no, la mia pensione è soltanto dall'attività principale, per cui io mi trovo qui a Bruxelles. Sì. No, no, invece per le mie attività extra sono sempre attivo. Senti, abbiamo ancora un po' da approfondire prima della fine della trasmissione, ma volevo chiederti, secondo te il fatto che tu sia stato coinvolto, che tu ti sia fatto coinvolgere, ma che abbia preso tu l'iniziativa del botteghino, del teatro, della radio, ti ha distratto dal lavoro o ti ha fatto lavorare meglio? Cosa pensi? No, addirittura il mio lavoro era questo. il lavoro principale era un hobby per me. Ecco. Sì. Sì, in effetti è così. No, ma comunque insomma, no, non ho saputo ben giostrarmi nella divisione tra il lavoro mio, che mi dava da mangiare praticamente, sì, e le mie attività extra lavorative, che appunto sono state la comunicazione, è tutto nella comunicazione praticamente. Se consideriamo la radio, il giornale e il teatro, fanno parte della comunicazione. Certo, ma se tu, per esempio, che ne so, a una giovane arrivati qui a Bruxelles da poco, che lavorano o nell'ambito delle istituzioni europee o altrove, insomma, poi a Bruxelles c'è gente che fa anche altro, non ci sono solo le istituzioni, ma ti sentiresti di consigliare di iniziare un'attività di questo tipo, cioè di mettersi al servizio degli italiani che vivono qui in Belgio e a Bruxelles? Ma sì, certamente, però come dicevo prima, bisogna fare un esame di se stesso, e cioè vedere un po' quello che si vuole fare e che si vuole fare. Certo, uno, quante volte sentiamo persone che ci dicono: ah, mi piace il teatro, lo vorrei fare, mi piace. Poi magari scopri che vengono una volta, due volte, tre volte, poi non vengono più. Ma perché? Perché sì, tra, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E cioè, se non hai veramente passione, non fai nulla. Quindi devono prima fare un esame di se stessi, un esame di coscienza su quello che veramente desideri fare, e poi intraprenderlo, ma intraprenderlo veramente in una maniera seria. Uh-huh. Come se fosse un lavoro, certo, ma che ti deve dare innanzitutto soddisfazione, certo, soddisfazione a te stessa, e poi che ti deve divertire, devi divertire facendolo. Allora, il botteghino è nato nel 2002. Sai che cos'è il botteghino? Il botteghino è dove vai a fare il biglietto. Certo, è vero. Per il teatro, botteghino, è vero, è proprio così. Per il teatro, per il cinema. E allora vuoi spiegare come mai, ecco, hai dato il nome a questo mensile di informazione, appunto, il botteghino? Appunto perché è un punto di incontro il botteghino, uh-huh, dove ci si incontra, no? Dice: bah, ci diamo appuntamento al botteghino per vedere questo spettacolo. Sì. Ecco, il giornale, il botteghino, vuole essere appunto un punto di incontro per gli italiani che vogliono incontrarsi e vogliono sapere quello che si fa, insomma, qui a Bruxelles. Senti, ma sempre di più appunto questo botteghino che, come dicevamo prima, da 4 è passato a 14 pagine, si arricchisce di informazioni di vario genere, poi c'è, che ne so, le storie, mi ricordo, non so se nell'ultimo numero c'era, ma un periodo qualcuno che chi voleva poteva scrivere una esatto, storia. Sì. Ogni tanto mi mandano qualche, sì, qualche racconto, qualche e storia. E poi ci sono anche i tuoi editoriali, ogni di riflessione di, esatto, di vario genere, generalmente li faccio su ogni numero, c'è, sì, un mio editoriale, non ho voluto chiamarlo editoriale, sì, ma riflessioni del redattore, del redattore. Che sono appunto su temi di ogni giorno, uh-huh, no? Sociali soprattutto, uh-huh. Allora tu come dicevamo prima, sei in pensione da qualche tempo, però dal primo gennaio. Dal primo gennaio, sono ecco, soltanto però, 10 mesi. E per fortuna che sei qui e che insomma continui a fare tutto questo, perché effettivamente magari oggi forse ci sono anche altri mezzi di informazione, però personalmente non mi è mai capitato di trovare un compendio di informazioni così ben articolato come il botteghino. Io personalmente non ne sono a conoscenza, sono certa che ci sono informazioni da varie parti, ma forse secondo me il botteghino ha il merito di raccoglierle tutti insieme, che quindi tu sai che quando prendi questo singolo mensile di informazione trovi veramente un po' di tutto. È veramente le informazioni che io cerco di inserire, di mettere nel botteghino, sono informazioni, il succo, uh-huh, di quelle informazioni che da varie parti posso raccogliere. Quindi c'è un doppio lavoro. Primo lavoro è quello di ricerca dell'informazione e che questa informazione possa servire anche al lettore. Certo. E poi fare un compendio di questa informazione. Se dovessi mettere l'informazione così come la trovo, non ci sarebbero, non basterebbero manco 100 pagine. Uh-huh. Quindi diciamo che il lavoro maggiore. Quindi è un lavoro impegnativo. Il lavoro maggiore è quello che fai. Di raccogliere veramente il succo dell'informazione, perché ovviamente tu sai benissimo che più lunga è l'informazione e meno il lettore la legge. Certo, certo. Io mi metto dalla parte del lettore, perché prima di essere il responsabile del botteghino, il redattore, sì, ero anche lettore. Certo. Mi metto appunto dalla parte del lettore e quindi so benissimo che uno che legge un giornale va al succo soprattutto. Certo. Ecco perché cerco di... Scusa, e i titoli te li danno, in genere te li mandano o li trovi tu? No, i titoli alcuni me li mandano, altri li trovo io, uh-huh, li invento io, oppure uh-huh, cerco uh-huh, di mettere dei titoli piuttosto attraenti. Ho capito, beh sì, per da un punto di vista l'attenzione. Tu hai detto, mi dicevi prima che iniziasse la trasmissione, che sono 40 anni, sì, che lavori o comunque sei appassionato di giornalismo. In effetti sì, no, un lavoro non lo considero nemmeno no, un lavoro, infatti, ma sì, è una tua passione lo faccio diversivo. Con un divertimento, come mio divertimento, è un mio diversivo. Sì, in effetti sono... forse anche un po' più di 40 anni, ho iniziato sin da quando ero in Italia a scrivere per due giornali pugliesi, perché io sono di Bari, ma così per gioco, e contemporaneamente ho fondato anche una compagnia teatrale pure in Italia. Poi dall'Italia sono partito in Lussemburgo come mia prima destinazione, e lì ho costituito un'altra compagnia teatrale che si chiamava il GAT, Gruppo Amici del Teatro, Lì sono stato in Lussemburgo, ho vissuto per 5 anni, ed è una compagnia teatrale che continua ancora. Continua e questo ancora. Mi fa bello, piacere. Beh, certo. Questo mi fa piacere perché ultimamente mi sono sentito con, ovviamente i componenti sono cambiati, sì, rispetto a, beh, immagino, ad alcuni, certo, anni fa. E quindi una volta poi trasferitomi qui a Bruxelles, ho fatto radio, ho continuato la mia attività di comunicazione. Ho capito. Radio, ho costituito questa compagnia teatrale qui a Bruxelles, la Bottega Magica. Ecco, io, perché siamo veramente in chiusura, Vito, volevo solo ricordare che la Bottega Magica, appunto, ci sarà lo spettacolo intitolato L'Invitato, per, sì, la regia quindi di Vito La Raspata e Ortensia Semoli, ad Anversa, domenica 17 novembre alle ore 15 presso Het Klokhuis, e venerdì 22 novembre alle ore 20 al Palais de Beaux-Arts. Quindi insomma, a seconda dei vostri impegni, scegliete tra Anversa 17 novembre e Bruxelles 22 novembre. Io volevo ricordare, sì, soltanto che chi vuol ricevere il botteghino, sì, oppure scrivermi, prego, soltanto per avere delle informazioni varie, può farlo scrivendo a bottega2002@hotmail.com. Bene, Vito La Raspata, ti ringrazio moltissimo di essere stato qui, di averci dato così qualche chicca, una piccola parte probabilmente di tutto quello che fai, che hai fatto, e magari sarà di stimolo anche per chi ci ascolta. Sono io che ringrazio te e anche chi ci ha ascoltato questa sera. Grazie mille e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma, da me Rosanna. E arrivederci. Arrivederci in teatro magari. Magari, sì.